conservazione, senza poi troppa distinzione. Bello e brutto, in questi casi raccolgo tutto ciò che il tempo ha allontanato, spesso distrutto. Guardo quello che è in mano, dico questo lo butto, poi invece cerco dove infilarlo. Magari nascosto, ma che sappia trovarlo, solo per guardarlo. Magari un giorno mi venga in mente di farlo. Così ho registrato 1000 videocassette in fila su scaffali con le proprie etichette. Ricordi in videotape che mi terrò stretti, frammenti di storia che vanno diretti a quello che sono, a ciò che da sempre ho provato a tradurre in suono. Una storia di un uomo che sa farsi sentire nonostante il frastuono. Sa quello che è intorno, dice questo è un dono, e presto mi abbandono a questo loop eterno, buttando un po' di me sopra questo quaderno. Pagine ingiallite che riprendono vita, il sapore di un passato che tieni tra le dita. Dietro ogni persona una storia infinita, e beh, cosa credevi, boy? Questa è vita. Hey, e tu non mi fai così male, non so nemmeno io dove posso arrivare. Io da questo suono, se mi lascio guidare, passo dopo passo imparo a giocare. Hey, e tu non mi fai così male, non so nemmeno io dove posso arrivare. Io da questo suono, se mi lascio guidare, passo dopo passo imparo a giocare. Hey, e tu non mi fai così male, non so nemmeno io dove posso arrivare. Io da questo suono, se mi lascio guidare, passo dopo passo imparo a giocare. Se avessi il tempo di guardare tutto ciò che ho registrato, forse mi farei un'idea di ciò che ho sempre cercato, di ciò che ho realizzato, di ciò che spesso ho accantonato, per paura di non avere abbastanza fiato, per arrivare fino in fondo, trovarmi solo sullo sfondo di quel sogno che in fondo ancora adesso nascondo agli altri, per paura di arrivare tardi all'appuntamento col destino, in cui tutto prende forma e dà un senso il mio cammino. Invece gioco a fare l'indovino, provando a immaginare luminoso il mio arrivo. Unica certezza è il mio passato, ma anche quello una volta riguardato non ha più il sapore di ciò che è stato. Niente meglio del ricordo che ti ha lasciato. Non sarà guardando indietro che si vive questa vita in salita su una lastra di vetro. Hey, e tu non mi fai così male, non so nemmeno io dove posso arrivare. Io da questo suono, se mi lascio guidare, passo dopo passo imparo a giocare. Hey, e tu non mi fai così male, non so nemmeno io dove posso arrivare. Io da questo suono, se mi lascio guidare, passo dopo passo imparo a giocare. Hey, e tu non mi fai così male.